diria jo pinang ala kabatamu mangko kabapisan onde adi onde adi. Allah tajalin lamu di antara kita, di antara kita. Desa unik yo sabatang, sarang kaidahan yo renting. Dek itu sapa sukuan di sini. Carai siria jo pinang ala kabatamu mangko kabapisan onde adi onde adi. Dek mama nan bakuaso memilah pinang nanti bo Allah tajalin lamu di antara kita, di antara kita.